Quando i poliziotti entrarono, mosse un braccio e il capo della polizia gli sparò ad una mano. La polizia lo accusò di un omicidio avvenuto nella notte del 10 gennaio, un negozio di un certo John Morrison che fu ucciso insieme al figlio. Morrison era un ex agente di polizia che 7 anni prima era stato assalito nel suo negozio ed uno degli assalitori era stato ucciso. Poi fu nuovamente aggredito nel settembre del 1912 ed in questo caso ferì uno degli aggressori. Alcuni testimoni testimoniarono che uno degli assassini era un certo Frank Wilson, un ex detenuto che Morrison aveva mandato in prigione. Ma l'ipotesi della vendetta fu abbandonata quando fu arrestato Joe Hill. Il solo legame tra Hill e quell'omicidio che la polizia fu in grado di fornire era che Joe aveva una ferita da arma da fuoco per la quale non voleva dare spiegazioni. Il palazzo del governatore fu inondato di lettere e telegrammi, ambasciatori stranieri e persino l'allora presidente Wilson furono indotti a fare appello per la clemenza. Raduni di protesta si tennero in ogni parte del mondo. A quanti facevano notare che Joe Hill, che avrebbe potuto salvarsi la vita dicendo come era stato ferito, rispondeva che se quelli che sapevano non si facevano avanti di loro spontanea volontà, era inutile che lui li indicasse. Joe Hill fu condannato a morte il 27 giugno 1915. Gli fu chiesto se preferiva essere impiccato o fucilato. Lui rispose: «Preferisco la fucilazione». Il 19 novembre Joe Hill venne fucilato. Al suo funerale parteciparono migliaia di persone che cantarono le sue canzoni. Le canzoni di Joe Hill sono diventate una lunga tradizione nei canti di lotta che arriva fino ai nostri giorni. È il caso di una canzone degli anni 30, scritta dal cantautore Earl Robertson, che si intitola semplicemente Joe Hill, il cui testo dice: «Ho sognato di vedere Joe Hill stanotte vivo, come te e me. Gli dissi: Joe, ma sei morto da 10 anni? Non sono mai morto, mi rispose. Dovunque gli operai si organizzano, dovunque gli uomini lottano per i loro diritti, è lì che troverete Joe Hill». Nel 1969 Joan Baez cantò questa canzone a Woodstock. Ascoltiamola. Dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. Copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. I didn't die. And standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to organize. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men defend their rights, it's there you find Joe Hill. It's there you find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive. safe as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. Nel 1916 iniziò lo sciopero alla Silver Mine di Aurora, nel Minnesota. I minatori dovevano sopportare condizioni di lavoro inumane e quindi chiesero dei miglioramenti che furono rifiutati. Lo sciopero si estese rapidamente ai distretti minerari del ferro dei Monti Mesaba, di Cayuna e di Vermilion. Gli scioperanti raggiunsero il numero di 16.000. Era in corso la Prima Guerra Mondiale in Europa e il ferro era una delle materie più richieste. Quindi i padroni della United Steel Corporation mandarono le loro guardie per reprimere lo sciopero. Ma questo non bastò ed il governatore del Minnesota mandò la milizia ed emanò disposizioni per impedire le manifestazioni degli scioperanti. Fu assassinato un operaio di origine finlandese e quindi fu organizzato un corteo di protesta alla cui testa fu messo uno striscione con sopra scritto «Occhio per occhio, dente per dente». Dietro erano inquadrati gli organizzatori degli IWW, seguiti da una banda musicale. I dirigenti degli IWW furono accusati dell'uccisione di un agente pagato per eliminare i leader dello sciopero, un certo Myron, che si era presentato nella casa in cui vivevano tre minatori ed alcuni organizzatori degli IWW, tra cui Carlo Tresca. Ci fu una sparatoria e il killer Myron fu ucciso. Gli occupanti della casa furono tutti arrestati, i minatori si dichiararono colpevoli e furono condannati a una pena da 5 a 20 anni di penitenziario. In realtà furono raggirati. I minatori si erano accordati mentre erano in prigione per una condanna ad un anno a patto che avessero ammesso la colpevolezza. Il governatore poi mandò una commissione per esaminare le condizioni di lavoro dei minatori che avevano scioperato. Dopo i risultati della commissione, le rivendicazioni dei minatori vennero tutte accolte. A Everett, nello stato di Washington, lo sceriffo fece arrestare organizzatori e oratori degli IWW e fece sciogliere le loro riunioni. Le sezioni degli IWW di Seattle decisero allora di inviare i propri aderenti a Everett. Il 5 novembre 1916 circa 300 Wobblies noleggiarono due navi e cercarono di sbarcare a Everett, ma furono accolti da raffiche di fucileria sparate da vice sceriffi e sicari prezzolati, reclutati dagli industriali del legname. Ci furono almeno 5 morti accertati e decine di feriti tra gli operai, ma molti altri annegarono. Morirono anche 2 sceriffi e 16 furono feriti dal fuoco incrociato, come avrebbe sostenuto la difesa nei processi, dato che avevano sparato alle imbarcazioni da 3 lati. 74 Wobblies vennero incriminati per omicidio. Furono torturati e picchiati. Gli uomini accusati di omicidio furono poi liberati. Uno fu portato a processo a Seattle e scagionato dopo 7 mesi. Nessuno dei vice sceriffi che avevano sparato fu arrestato e incriminato, ma gli Wobblies vinsero la battaglia, anche se a caro prezzo. A Everett venne istituita la libertà di espressione e agli IWW fu permesso di affittare una sala, così come di tenere raduni in strada. Nel 1917 gli Stati Uniti entrarono in guerra. La sorveglianza del governo sugli IWW divenne più intensa. La stampa iniziò una campagna contro gli IWW accusandoli di ricevere grosse somme in oro dalla Germania. Furono anche accusati di avvelenare i cibi in scatola usati dall'esercito e di essere responsabili di un'epidemia del bestiame che aveva ucciso intere mandri. Le ferrovie vennero poste sotto il controllo diretto del governo, con il blocco dell'immigrazione e una assoluta necessità di produrre, i lavoratori si trovarono improvvisamente in una eccezionale posizione di forza. I datori di lavoro non erano più in grado di sopportare scioperi della durata di settimane e mesi, assumendo crumiri facili da trovare nella costante massa dei disoccupati. Il salario reale era notevolmente salito durante la guerra in conseguenza dell'enorme richiesta di forza lavoro, ma la guerra portò anche un'enorme inflazione e il costo della vita in pratica raddoppiò dall'agosto 1915 alla fine del 1919. Malgrado gli appelli al patriottismo e l'opposizione del governo, del Capitale e della AFL, gli scioperi furono assai frequenti nel corso della guerra. Grandi scioperi all'inizio della guerra bloccarono la lavorazione del legname d'abete e l'estrazione del rame nelle zone minerarie più importanti. A Bridgeport, nel Connecticut, il centro più importante degli Stati Uniti per la produzione di munizioni, gli operai fermarono l'attività sfidando gli ordini del governo e dei capi dei loro sindacati nazionali. Il governo americano adottò una politica estremamente repressiva nei confronti degli IWW, accusati di pacifismo e di sovversione. Molti leader degli IWW vennero arrestati e imprigionati e le lotte da essi organizzate pesantemente represse. Elizabeth Garley Flynn scrisse: «Il paese fu percorso da una crescente ondata di isterismo e di violenza. La maggior parte del popolo americano non la condivideva, ma si lasciava sempre più soggiogare dal terrore. Nei luoghi pubblici venivano appesi manifesti a stampa firmati dal ministro della giustizia Gregory, che dicevano: obbedite alla legge e tenete la bocca chiusa. La violenza della folla colpiva le vittime più svariate, ministri del culto cristiano, negri e bianchi, difensori della pace per motivi religiosi, morali o politici, socialisti, IWW, membri della Non-Partisan League, molto forte tra i contadini del Middle West, partigiani della libertà dell'Irlanda e altri ancora. Ed ora ascoltiamoci Pie in the Sky, una canzone di Joe Hill cantata da Pete Seeger. You will eat by and by in that glorious land above the sky. Work and pray, live on hay. You'll get pie in the sky when you die. That's a lie. Long-haired preachers come out every night, try to tell you what's wrong and what's right. But when asked about something to eat, they will answer with voices so sweet. You will eat by and by in that glorious land above the sky. Work and pray to live on hay. You'll get by in the sky when you die. That's a lie. Oh, the starvation army, they say, while they sing and they clap and they pray, till they get all your coin on the drum, then they'll tell you that you're on the bum. You will eat by and by in that glorious land above the sky. Work and pray, live on hay. You'll get by in the sky when you die. That's all. If you fight hard for children and wife, try to get something good in this life. You're a sinner and a bad man, they tell. When you die, you will surely go to hell. Working men of all countries unite. Side by side, we for freedom will fight. When this world and its wealth we have gained, to the grafters we'll sing this refrain. You will eat by and by when you've learned how to cook and to fry. chop some wood, twill do you good, and you'll eat in the sweet by and by. Nell'agosto del 1917 il ministro della giustizia poteva vantarsi di avere diverse centinaia di migliaia di cittadini al fianco delle autorità federali impegnati nel riportare discorsi antipatriottici. Questi agenti spiavano i vicini di casa, i compagni di lavoro ed ogni individuo che destasse sospetti. Il 5 novembre 1917 gli agenti segreti del Ministero della Giustizia scatenarono una pesante azione repressiva contro gli IWW. L'organizzazione subì scorrerie in tutto il territorio degli Stati Uniti. Quasi tutte le loro sedi furono chiuse, le case dei militanti furono perquisite in massa senza mandato. Tutto ciò che fu trovato nelle sedi fu confiscato e inviato a Chicago, dove vennero ammucchiate a tonnellate nel Palazzo Federale. Tutti i documenti trovati furono accuratamente esaminati dai pubblici ministeri. Furono elevati 5 capi di imputazione contro i membri degli IWW. Un'altra ondata di perquisizioni fu effettuata il 28 settembre. I membri degli IWW furono arrestati a migliaia e ammassati in tutte le prigioni del paese. Dopo il settembre 1917, gli IWW diventarono un'organizzazione impegnata quasi esclusivamente nella difesa legale degli arrestati, con i suoi militanti decimati, le casse svuotate, impossibilitata a condurre nuove grandi battaglie vincenti sui luoghi di lavoro. Molti membri degli IWW erano in prigione e il carcere di Sacramento era infestato dall'influenza spagnola e molti di loro vi morirono in attesa del processo. Gli IWW non vennero completamente eliminati, ma la crisi determinata dalla tremenda repressione che continuerà fino a dopo la fine della Prima Guerra Mondiale li ridusse ad un ruolo marginale. Nel 1919 a Pittsburgh la AFL fu costretta a proclamare lo sciopero nelle acciaierie per evitare che il controllo della situazione passasse nelle mani degli IWW e di altre organizzazioni radicali. Durante la guerra si erano create nuove aspettative. Gli operai delle acciaierie erano stati oggetto di una immensa propaganda che metteva in grande rilievo l'importanza del loro ruolo. Si aspettavano dunque che alla fine del conflitto questa loro importanza avrebbe ottenuto un riconoscimento concreto. Il cuore dell'industria dell'acciaio era il distretto di Pittsburgh, che comprendeva decine di cittadine nella Pennsylvania. Il 25 maggio fu indetta una conferenza di 80 centri siderurgici cui parteciparono 583 rappresentanti dei sindacati locali. Essi arrivarono con precise istruzioni dei loro iscritti ed avevano il mandato di dichiarare lo sciopero, ma i funzionari centrali dissero che i soli ad avere questo potere erano loro. Moltissimi operai abbandonarono i sindacati. Il 20 luglio il Comitato Nazionale autorizzò finalmente una votazione sullo sciopero. Venne decisa infine la data dell'inizio dello sciopero per il 22 settembre. Le dimensioni dello sciopero stupirono sia i capi sindacali che i dirigenti dell'industria. I partecipanti furono più di 350.000 e la paralisi dell'industria siderurgica fu pressoché completa. Venne organizzato un colossale sistema di distribuzione di viveri in tutta la zona interessata. La merce veniva comprata presso le cooperative, impacchettata in quantità sufficienti per mezza settimana a famiglie di diverse dimensioni e poi consegnata a 45 posti di distribuzione. La maggior radicalizzazione della lotta fu a Seattle, dove gli IWW e il Metal Trade Council, affiliato alla AFL, collaborarono nel patrocinio di un consiglio dei soldati, marinai e operai creato sul modello dei soviet russi. Tutto il movimento operaio locale parteggiava per la rivoluzione bolscevica e si opponeva all'intervento americano contro di essa. Nell'autunno del 1919 gli scaricatori di Seattle rifiutarono di caricare armi e munizioni destinate all'ammiraglio Kolchak, capo della controrivoluzione in Siberia, e bastonarono i crumiri che tentavano di farlo. Il sindaco di Seattle, Ole Anson, descrisse l'inizio dello sciopero. Cessò il rumore dei tram, gli strilloni buttarono in giro per le strade i giornali invenduti. Dalle uscite degli stabilimenti, delle fabbriche, dai negozi e dalle officine minori sciamavano 65.000 lavoratori. I ragazzini delle scuole, con la paura nel cuore, si affrettavano verso casa. La vita di una grande città si era fermata. Il cosiddetto sciopero di Seattle fu un tentativo rivoluzionario. Il fatto che non ci siano stati atti di violenza non modifica la sostanza delle cose. Convinto che la Guardia Nazionale fosse insufficiente a far fronte alla situazione, il ministro della Giustizia dello Stato chiese l'invio dell'esercito federale. Furono collocati nei punti chiave 950 Marines e marinai della flotta. Il sindaco aumentò di 600 uomini i corpi di polizia e introdusse 2.400 nuovi agenti in corpi speciali. Poi il sindaco lanciò questo ultimatum. Al comitato dello sciopero, notifico che se lo sciopero di solidarietà non sarà sospeso entro le ore 8 di domani mattina, sabato 8 febbraio 1919, mi servirò della protezione offerta a questa città dal governo nazionale per far riprendere tutte le attività essenziali. Il comitato esecutivo dello sciopero decise che fosse raccomandata la conclusione dello sciopero quella sera stessa. Poi ebbero modo di discutere la cosa con i lavoratori della base e quando ritornarono alla riunione votarono a stragrande maggioranza in favore del proseguimento dell'agitazione. A questo punto le pressioni più forti vennero fatte dai funzionari centrali del sindacato affiliati alla AFL. Gli operai si convinsero a poco che non c'erano possibilità di successo e poco per volta cominciarono a riprendere il lavoro. Lo sciopero terminò l'11 febbraio. Ma nei cantieri navali lo sciopero continuò. La sede centrale del Partito Socialista, una tipografia dei sindacati e la sede degli IWW furono oggetto di incursioni e razzie e 39 iscritti agli IWW vennero arrestati come caporioni dell'anarchia. La mobilitazione più lunga avvenne nelle miniere del carbone dal 1919 al 1922. Nella settimana che seguì il 4 luglio 1919, in tutto il paese vi furono scioperi di protesta contro l'incarcerazione di Tom Mooney, una figura importante del movimento operaio americano e membro degli IWW. Nel distretto di Belleville, nell'Illinois, i minatori si trovarono una decurtazione per aver partecipato allo sciopero. Richiesero quindi l'immediata restituzione della somma detratta, ma ricevettero un rifiuto, al che si radunarono fuori dalla miniera in una manifestazione spontanea. Fu deciso di proclamare un nuovo sciopero al quale aderirono i minatori di molte altre miniere della zona. Nel frattempo le motivazioni dello sciopero si erano ampliate notevolmente. L'agitazione infatti non era ormai più rivolta semplicemente contro le multe, ma anche contro il contratto che vincolava l'attività dei lavoratori. Man mano che si allargava l'agitazione, i lavoratori di ogni zona eleggevano i loro rappresentanti in un comitato nel loro distretto. I rappresentanti di questi comitati costituirono un comitato generale per tutto lo stato dell'Illinois. Ben presto il sindacato United Mine Workers of America, affiliato alla AFL, cominciò a procurare ai dirigenti delle miniere i crumiri necessari a far riprendere l'attività laddove lo sciopero l'aveva interrotta. Uomini fidati del sindacato vennero assunti in corpi speciali di polizia e furono arrestati scioperanti da questi neopoliziotti. In seguito il sindacato ammise di aver speso $27.000 per domare la rivolta. Nonostante ciò, circa 45.000 minatori dell'Illinois continuarono lo sciopero. I sindacati ufficiali riuscirono ad evitare la partecipazione di minatori della Pennsylvania e di altri stati, dicendo che lo sciopero doveva cessare perché erano previste entro un mese le trattative per i nuovi contratti. Ma al Congresso nazionale della UMV del mese successivo vennero accettate le richieste dei ribelli. Inoltre fu proposto che le miniere non restassero più sotto la direzione generale del governo, come prevedeva la linea ufficiale del sindacato in quel periodo, ma che passassero sotto il controllo dei minatori. Un mese dopo, 2.000 delegati richiesero un nuovo contratto. Fissarono il 1 novembre come data dello sciopero in caso di fallimento delle trattative e ordinarono ai loro funzionari di chiedere la settimana di 30 ore e un aumento salariale del 60%. Il 1 di novembre iniziò lo sciopero di 425.000 minatori. Un giudice federale dichiarò illegale lo sciopero e ordinò il sequestro dei fondi sindacali. Le truppe federali furono inviate nei giacimenti carboniferi dello Utah, dello Stato di Washington, del Nuovo Messico, dell'Oklahoma e della Pennsylvania. L'8 novembre la Corte federale impose infine ai dirigenti sindacali di annullare l'ordine di sciopero e di far ritornare al lavoro i minatori. I minatori però lo ignorarono e continuarono l'agitazione, rifiutandosi per oltre un mese di riprendere il lavoro. Con riluttanza i minatori ritornarono al lavoro quando il presidente Wilson propose un aumento salariale del 14% e l'istituzione di una commissione per esaminare l'accettazione di ulteriori richieste. Ma i minatori rimasero insoddisfatti del compromesso, tanto che ormai nell'estate del 1920 erano continui gli scioperi selvaggi che proseguirono fino al 1922. L'11 novembre 1919, durante una parata per il primo anniversario dell'armistizio della Grande Guerra, un gruppo di membri dell'American Legion e commercianti locali assaltò la nuova sede degli IWW di Centralia, nello stato di Washington. La sede degli IWW era già stata devastata una prima volta nel 1918 durante una parata della Croce Rossa. Gli Wobblies, all'interno avvisati del possibile attacco e convinti del proprio diritto legale alla legittima difesa, risposero al fuoco. Nello scontro a fuoco morirono 4 legionari, tra cui il loro capo Warren Grimm. Gli scioperanti furono circondati e arrestati in massa. L'episodio di Centralia fu l'apice del lungo conflitto dei taglialegna e degli operai delle segherie del Nord-Ovest per strappare miglioramenti al Lumber's Trust, il cartello del legname. I lavoratori dovevano comprare in città il posto di lavoro dagli squali del collocamento e spesso, per mantenerlo, erano costretti a dividere i loro magri salari con caporali senza scrupoli. Vivevano in baracche luride e sovraffollate, spesso a centinaia di miglia da qualsiasi centro abitato. Dopo la sparatoria, chiunque fosse sospettato di essere uno Wobbly venne rastrellato. 11 uomini furono infine accusati per gli omicidi. La notte dopo lo scontro a fuoco, uno Wobbly, Wesley Everett, un veterano della Prima Guerra Mondiale, fu prelevato dal carcere, evirato e linciato. La difesa sostenne che la parata era stata fermata di fronte alla sede come parte di un piano predeterminato. I membri degli IWW vennero condannati per omicidio di secondo grado a pene dai 25 ai 40 anni, nonostante non vi fosse prove dirette della loro responsabilità individuale. In seguito, 6 giurati dichiararono di aver subito minacce per emettere il verdetto di colpevolezza. Tutti gli sforzi nel decennio successivo per ottenere un nuovo processo da parte del Comitato di Difesa degli IWW e dalle varie organizzazioni e singole personalità progressiste risultarono vani. si instaurò contro gli IWW un vero e proprio regno del terrore. Solo nello stato di Washington gli arresti furono più di 1000. Le sedi sindacali vennero chiuse, i giornali operai soppressi e coloro che vennero trovati con copie di giornali che riportavano la verità sui fatti di Centralia furono condannati a pene da 1 a 14 anni. La repressione così brutale ancora una volta quasi distrusse l'organizzazione degli IWW. Con il crollo in borsa dell'ottobre 1929 ebbe inizio la Grande Depressione. Con essa arrivò la perdita del lavoro, della casa, dei risparmi e persino del necessario per vivere e nutrirsi per le classi subalterne. Nel giro di 3 anni si creò una massa di circa 15 milioni di disoccupati. Gli IWW iniziarono ad organizzare i disoccupati. Ricorrendo all'azione diretta, i disoccupati furono in grado di impedire gli sfratti in molte città, fino a quando le autorità furono costrette a sospenderli del tutto. Gli IWW avevano promosso, come la chiamarono, la consapevole riduzione dell'efficienza e lo sciopero sul posto di lavoro. Metodi di lotta che arrivarono fino al sabotaggio, soprattutto nel settore automobilistico, dato che gli scioperi convenzionali cominciarono a rivelarsi sempre meno efficaci. Una pesantissima repressione si abbatté ancora una volta sugli IWW, ma le teorie, le tattiche, i metodi di lotta sia in fabbrica che per la difesa dei diritti civili degli IWW divennero un patrimonio condiviso nel movimento operaio americano. Basta vedere film come America 1929, Sterminateli senza pietà, di Martin Scorsese, o leggere il libro La battaglia di John Steinbeck per capire che l'eredità degli IWW era ben presente durante e dopo la crisi del 1929. Gli IWW, dopo una scissione nel 1924 e un declino che ebbe il suo culmine negli anni 50, erano dati per scomparsi. Nel 1950 il governo degli Stati Uniti d'America approvò il Taft-Hartley Act, che imponeva il licenziamento dei leader sindacali comunisti. Durante gli anni 60 il movimento per i diritti civili, l'opposizione alla guerra del Vietnam e i vari movimenti studenteschi nelle università statunitensi dettero nuova vita agli IWW, anche se il numero degli iscritti rimaneva abbastanza basso. Dagli anni 60 agli anni 80 gli IWW organizzarono diverse piccole campagne sindacali e realizzarono anche imprese tenute in modo cooperativo e collettivo, in particolare legate al settore della stampa. Fondarono anche insieme agli studenti dell'Università del Michigan una libreria senza scopo di lucro, la University Cellar. Alla fine degli anni 70 gli IWW si dedicarono anche all'organizzazione dell'industria dell'intrattenimento con un comitato organizzatore dei lavoratori dello spettacolo fondato a Chicago nel 1976, seguito dall'organizzazione dei musicisti di Cleveland nel 1977 e a Ann Arbor nel 1978. Alcuni musicisti iscritti agli IWW fecero un tour per raccogliere iscrizioni e nel 1987 fu pubblicato un album antologico dal titolo Rebel Voices. Ascoltiamo quindi un brano dall'album Rebel Voices, dal titolo Power in the Union. Would you have freedom from wage slavery? Then come join the grand industrial band. Would you from misery and hunger be free? Come on, do your share, lend a hand. There is power in a band of working folks when they stand hand in hand. That's the power that must rule every land. One industrial union grand. Would you have mansions of gold in the sky and live in a shack way in the back? Would you have wings up in heaven to fly and stay here with rags on your back? There is power in a had enough of the blood of the lamb, then come join the grand industrial band. If for a change you'd have eggs and ham, come on, do your share, lend a hand. There is power, there is power in a band of working folks when they stand. Sluggers to beat on your heads, then don't organize, all unions despise. If you'd have nothing before you're dead, shake hands with your boss and look wise. There is power in a band of working folks when they stand. This earth shall demand. Come on, do your share, lend a hand. There is power in a band of working folks when they stand hand in hand. That's the power that must rule in every land, for industrial union grand. Negli anni 70 gli IWW organizzarono anche i lavoratori dei supermercati, i lavoratori chimici e dei fast food, i lavoratori ospedalieri a Boston, quelli dei cantieri navali a Houston in Texas, i lavoratori dei ristoranti a Pittsburgh e gli operai edili ad Albuquerque nel Nuovo Messico. Negli anni 90 gli IWW furono coinvolti in molte lotte sindacali e lotte per la libertà di parola. Nel 1996 lanciarono una campagna contro Borders Book in molte città degli Stati Uniti. Questa campagna è stata seguita da una giornata nazionale d'azione nel 1997 in cui i negozi Borders sono stati picchettati a livello nazionale e poi da una seconda campagna organizzata a Londra in Inghilterra. Alla fine del 1997 organizzarono lo sciopero alla Neptune Jade nel porto di Auckland. Nel 1998 gli IWW costituirono una filiale a San Francisco del Marine Transport Workers Industrial Union, che ha formato centinaia di lavoratori del porto sulle pratiche riguardanti sicurezza e salute. Nel 1999 gli IWW costituirono una filiale locale dell'Educational Workers Industrial Union a Boston, in Massachusetts, che ha iniziato ad organizzare i lavoratori nei college e nelle università locali. Alla fine degli anni 90 organizzarono anche vari centri giovanili e per senza tetto a Portland e a Berkeley e furono anche attivi nei settori dell'edilizia, dei cantieri navali, delle industrie high-tech, degli hotel e dei ristoranti, delle ferrovie, dei fattorini in bicicletta e dei depositi di legname. Nel novembre del 1999 molti Wobblies ebbero un ruolo di grande importanza tra le migliaia di persone scese in strada a protestare contro la sessione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio tenutasi a Seattle. All'inizio degli anni 2000 gli IWW organizzarono l'autogestione dei lavoratori di un negozio di tessuti a Berkeley utilizzando i tessuti riciclati. Nel 2003 gli IWW iniziarono ad organizzare la gente di strada e le occupazioni, formando l'Ottawa Panhandlers Union. Un anno dopo la Panhandlers Union guidò uno sciopero dei senza tetto. I negoziati con il governo della città portarono al finanziamento di un giornale scritto e venduto dai senza tetto. Tra il 2003 e il 2006 gli IWW hanno organizzato sindacati nelle cooperative alimentari di Seattle, Washington e Pittsburgh. Nel 2004 una sezione degli IWW è stata organizzata in uno Starbucks di New York City. Nel 2006 gli IWW hanno continuato a organizzare i lavoratori Starbucks in diversi negozi dell'area di Chicago. Nel 2005, nella città di New York, gli IWW hanno iniziato ad organizzare lavoratori immigrati del settore alimentare ed i lavoratori di alcuni magazzini di questo settore hanno ottenuto risultati come il salario minimo e il pagamento degli straordinari. Sempre nel 2005 gli IWW avevano 5.000 iscritti ed avevano sedi, oltre che negli Stati Uniti, in Australia, Austria, Canada, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia e Regno Unito. Nel 2006 gli IWW hanno trasferito la loro sede centrale a Cincinnati, nell'Ohio. Nel 2010 la sede è stata trasferita a Chicago. Nel maggio 2007 i magazzinieri di New York si sono uniti alla Starbucks Workers Union per formare la Food and Dairy Workers Union. Nel corso del 2007 e del 2008 i lavoratori di alcuni di questi negozi erano stati licenziati illegalmente per la loro attività sindacale ed hanno quindi combattuto per riavere i loro posti di lavoro e per assicurarsi la retribuzione degli straordinari. Sempre nel settore alimentare, in una campagna per la giustizia sul posto di lavoro chiamata Focus on the Food Chain, i lavoratori degli IWW hanno vinto accordi contro i datori di lavoro. Il 5 giugno 2008 il sindacato aderente agli IWW dei lavoratori di Starbucks a Grand Rapids in Michigan e il sindacato CNTIT di Siviglia in Spagna hanno organizzato una giornata di azione globale contro il licenziamento di due membri del sindacato. Nel 2009 a Chicago le IWW iniziarono ad organizzare i Riders. Gli IWW hanno anche partecipato alle proteste contro il coinvolgimento nella guerra in Iraq, al boicottaggio della Coca-Cola e contro la soppressione dei diritti dei lavoratori in Colombia. Gli IWW hanno recentemente avuto un rilancio come l'unica organizzazione sindacale che si occupasse di lavoratori del settore della ristorazione veloce. Sono ad esempio attualmente egemoni nella catena Starbucks. Sebbene gli IWW non siano mai diventati un'organizzazione di massa, la loro influenza sul movimento operaio americano è stata significativa. Le loro idee e le loro tattiche continuano ad ispirare generazioni di attivisti e contribuiscono a diffondere una visione del sindacalismo radicale. Per chi volesse approfondire ci sono molti libri, come ad esempio di William D. Haywood, La storia di Big Bill, di Jeremy Brecher, Sciopero, di Luisa Damich, Dynamite, a cura di Renato Musto, gli IWW e il movimento operaio americano, a cura di Bruno Cartosio, Wobbly, di Valerio Evangelisti, One Big Union. Si conclude anche questa terza e ultima puntata dedicata agli IWW di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitti.